Lei invece guida. Esatto. Pilotessa, no? Si dice così? Sì, sì, sì. Allora, per te è la prima volta e vabbè, insomma, cioè, la domanda è banale ma è doverosa, cioè perché pilotessa? Perché pilotessa? Perché hanno mandato avanti te sostanzialmente? Sono stata scelta. Ma c'era una gara, avete fatto delle prove? No, le prove sono ancora in corso, anzi giusto oggi avremmo dovuto provare al circuito di Monza, secondo la scaletta. In realtà poi noi abbiamo una macchina solare e a Monza purtroppo oggi il sole non c'era proprio, quindi no. È stato tutto posticipato a domani. Infatti io effettivamente sul veicolo non ho ancora guidato effettivamente l'ultima versione di questo nostro veicolo. Sono salita però, a vettura ferma sì, è emozionante già quello, sicuro che già quello è emozionante. Ecco Coco, ma non è un po' un azzardo? Perché andate in Germania, ora sì. A Monza non è che è la Sicilia, però a Germania è un po' peggio, cioè è più facile beccare nuvole. Beh, questo sì, però non è certo la prima volta che ci si presenta in Germania con un prototipo solare, cioè, anche perché esatto. Tra l'altro la Germania è il paese che ha il più alto numero di pannelli solari, nel senso sono... Quindi il problema non è stato così tanto preso in considerazione, diciamo. Però... che anche l'anno scorso si è gareggiato con lo stesso tipo di macchina, ovviamente deve esserci il sole, questo è ovvio.